sono 3-4, poi acceso per farlo scaldare un po', ma non è che non già sei cane, sono un bene stanco. Non ve la posso più oggi, sono proprio tutto il dolore dei reni, crepato malutto. Se stanco, la sua strada. No, te lo dico io quando chiudo, non è che... Quando devo chiudere, già chiudo. Sto dicendo, sono con gribato. Mattina e sera oggi ho lavorato come un cane. Gamba. Come fai a tendere la sopra, cara? Cosa? Quando tendere la sopra, cara? Questa cosa io non pensavo, non me la tagliando il parolo, non me la ponendo la portante, lo faccio pure ascoltando, perché siccome io il volume lo lascio in questa maniera, poi ascolto, ho sentito qualche cosa, allora ho dato il volume e lì mi sono accorto, ho detto ma lo so, qualcuno che si fuma dentro il sigaretto a Caradino, ma che intendiamo? Appigliando il palo duro mi si dà giusto, credo. Ma la fine che ci ha aggiunto, ma non è possibile, anche se mi pone la portante dopo un po' molla. E poi c'è questa cosa, andava, aggiunto, ma non è possibile. E poi ho scoperto che, cioè, ho sentito a Marcolino, allora mi sono accorto su te, chi c'è Gianni? Ma lei trova il messaggio, l'ho mandato. No. Faccio un mondo del messaggio, disse. E che ora? Che qua fa? No, anche la verità no. Non ho sentito manco suonare. Cavolo. È un anno. Il messaggio suona. Io mi arrivo. Ma il telefono me l'ha mandato. Che telefono, avevo computer. Ah, pensavo al telefonino, per telefonino che l'arrivo le messaggi suona, no? Chiaro, ma non ti ne ho mandato i chive. Ma tu non me l'hai specificato, dove? Mi ha detto, ti ho mandato, ho letto il messaggio, si capisce al telefono. Ragazza. No, non ho letto manco il computer, sinceramente, non ho visto. Ma che so, ho imparato a mandarle. Certo, non ho mandato un amico, ma lo si è fatto, c'è in giro di 5 minuti. Ma cazzo, calmati che non sono pratico. Cazzo. Cioè, non sono molto pratico, cioè non sono abituato a scrivere veloce. Piano, ti abituo. Già lo so che piano mi abito, sono molto abituato, molto a curiosare insieme. Scoprire più che curiosare. Vabbè. E buonasera. Ciao. Vabbè, ascolta, dopo una prova, ti va? Prova? Di che genere? UHF. UHF? Sì, chi te lo hai tu? Io ce l'ho. Ma tu la frequenza? Aspetta, però è noi. Non ce l'ho in questo momento a portata di mano. Vabbè, non fa niente. No. Bisogna andare. visto. Già. Luca, io dico la mia frequenza. Gianni. Sì. Ma non mi senti? Se non me ne trovo frequenza, scusa, mi sono andato a prendere il ricevitore. Delle arette, delle grandi bossioline, delle la metti in plastica di raffreddamento. Partono perché sono così, scaldano troppo, ma scaldano maledettamente, vanno a bruciarsi pure. Perché sono chiusi a tu, se fossero invece avuto uno sfogo per respirare un po' l'alimentatore, non sarebbe successo, invece lo fanno con scopo per comprarne altri. Non è che sono disgraziati, sono vero. Devi stare molto attento, devi stare. Non so, scaldano moltissimo le mie cartoni lì, soprattutto in questo periodo bisogna stare molto attenti. Infatti col caldo, ma bruciano, quando tu usi un po' il computer, usi un momento, una cosa, bruciano subito, è un casino. Infatti anche noi facciamo così, rifacciamo carica la bottiglia. Io lo faccio diversamente, la batteria la lascio caricare, quando io non sto usando il computer, l'attacco, la faccio caricare, poi una volta che carica, stacco e lo uso con la batteria, ma dura un bel po' come la batteria, non ti credi, dura assai. La dura già. Però almeno cosa ti posso dire? Non vorrei esagerare, ma manco mezz'ora per esempio. Mezz'ora la dura anche a me, ma non è moltissimo mezz'ora. Se tu stai a parlare con un amico, una cosa mezz'ora ti passa l'acqua di la bizza. Chiaro, ma lo sa che proprio dalla corrente lo sa che io alimentavo. Cosa sta proprio dalla corrente? No, se una volta che è caricata la batteria lo stacco proprio dalla corrente. Chiaro, dalla fretta. Dovrebbe raffreddare, chiaro. Strano. Se tu non lasci attaccata la presa continua a scaldare, tu lo so. È molto strano. Comunque la sostanza dove dovuto bruciare. Sono chiusi ermeticamente, ti ripeto, non c'è nessuno sfogo. Bisognerebbe fargli delle finestre o dei bucherilli come li ha fatti Giuseppe. Mi ha detto che adesso respira, lo sento respirare proprio l'aria calda che esce fuori. Poi sono maledetti, insomma, questo alimentatore, dobbiamo stare molto attenti. E te l'ho detto che mi sei proviato tutto della televisione. Che succede sempre attento? Lo so, a me praticamente mi si è bruciato quello del computer e l'ho ricomprato nuovo, mi si è bruciato anche quello nuovo e adesso ne ho comprato un altro, il terzo che a me... L'avete comprato oggi stesso, che l'avete comprato. È normale, se lo usi il computer lo devi comprare, se no non puoi entrare. È perché spegne la batteria, non andrà più. Ma funziona, una volta che finisce la batteria, poi la batteria l'abbiamo usufruita tutta, perché Liliana stava facendo degli ordini di astronome e praticamente non li era fatti manco finire. Beh, bello ci vorrà subito la corrente. Quella è la maledizione, già, perché scaldano troppo. E per quello che ci bruciano. Raga. Scaldano sì. Scaldano mela. Se avessi avuto una ventola, una ventolina piccola non sarebbe successo, ma... Secondo me loro lo fanno tutto con scopo, anzi ti ripeto, perché chiuderlo così ermeticamente, mettere delle viti particolari per non aprirlo, queste cose. Sai che io lo sposto, ma non lascio mai un po' troppo il sonno. Se lo diventate? Sennò si cade il trucco. In quel punto lì è arrivato un po' il calore, poi ce lo sposta niente, quando carica. Poi lo sai cosa abbiamo fatto? Ho comprato quelle ventole dei cinesi che si mettono sotto al computer, le ho messo quelle lì. Capo, ma il computer non le fa niente, il computer se stesso. No, quelle cosettine sono già, perché c'hanno già le ventole sotto. No, il computer si spegne se si riscalda, perché c'è la protezione. Ma quelli lì no, protezione non ne hanno. E scappa. No, il computer comunque non si deve mai sul riscaldare, mai. No, io quello... Le abbiamo... Cioè, siamo...